Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sono stati recentemente attribuiti alla Fiera Agricola di Verona i premi assegnati da Nova Agricoltura ad alcuni agricoltori che si sono distinti per la capacità di sperimentare e di innovare. Un premio che ha sullo sfondo, tra l'altro, un importante cambiamento in arrivo, la nuova PAC, la politica agricola comune dell'Unione Europea, che scatterà a partire dal 2015 e che introdurrà parecchi cambiamenti. Allora, insomma, incontriamone due di questi agricoltori innovatori. Cominciamo con Luciano Lanza, che ha ricevuto il premio Agrofarma dell'azienda Corte Virginia a Roverbella, in provincia di Mantova, dove coltiva una sessantina di ettari, tutti a mais. Benvenuto Lanza. Buongiorno a lei. Buongiorno. Lei lavora con mappe di raccolta, fotografie aeree effettuate da drone e sta sperimentando questa tecnica cosiddetta della semina a file strette. Insomma, quali sono gli aspetti più innovativi della sua metodologia? Allora, no, premetto che noi le file strette le abbiamo messe in atto ancora dal 1988. Abbiamo continuato su questa strada perché abbiamo pensato che la miglior distribuzione delle piante sulla superficie fosse data dalle file strette e l'allungamento sulla fila. Nel 2012 abbiamo modificato la nostra macchina aziendale e siamo riusciti a seminare il mais addirittura sfasato fra fila e fila, quindi il termine sarebbe il quinconce, dando così a ogni pianta maggior spazio disponibile. E abbiamo avuto un risultato produttivo di tutto rispetto, abbiamo aumentato di 3-4 punti percentuali la nostra produttività. Che è abbiamo già fatto dei voli di drone per rilevare la massa vegetativa delle piante. Sì. Dopodiché a questa è seguita la mappatura della trebbia come raccolta, sicché adesso siamo arrivati ad avere suddividere l'azienda in tre zone, diciamo così, la media, la minima, la media e la massima produttiva, sulle quali inseriamo anche la semina a rateo variabile, quindi dove c'è più fertilità mettiamo più piante, dove ce n'è meno qualcosina di meno. Tutto questo per cercare di ottimizzare. Grazie, grazie Luciano Lanza. A lei. Diamo il benvenuto anche a Nino Chiò, premio Kuhn. Buonasera Chiò. Buonasera. In particolare lei è molto impegnato sul tema dell'agricoltura di precisione, coltiva 170 ettari a riso, mais e soia. Nella motivazione del premio c'è l'utilizzo di un programma informatico che le consente di realizzare prima delle mappe di produzione da cui derivano delle mappe di prescrizione. Ci spiega di che cosa si tratta? È molto semplice. Noi facciamo riso preciso, mi piace chiamarlo così, quasi uno slogan. È un modo di coltivare dove noi usiamo una tecnologia georeferenziata, questo è il termine corretto, conoscere in quel punto che cosa è successo. Quindi la mietitrebbia non solo miete il raccolto, ma miete dei dati, quanti quintali prodotti in quel punto, quanta umidità in quel punto, quindi tutta una serie di dati per cui mi creano una mappa di produzione. Questa mappa di produzione, beh, la sorpresa principale quando abbiamo incominciato è che da una parte abbiamo alte produzioni, dall'altra parte abbiamo basse produzioni, allora la domanda è: ma che cosa è successo? Cosa cambia? Di là e che cosa? Siamo andati a verificare il perché, perché c'è troppo concime, perché c'è un filare di alberi che fa ombra, e allora se c'è un filare che fa ombra non ci si può fare nulla, ma se è una questione di qualità del terreno, bene, noi possiamo incidere aumentando, diminuendo la quantità di concime, e quindi sostanzialmente creiamo delle mappe di prescrizione, cioè diciamo al nostro span di concime, diciamo guarda di là è molto fertile, togli un po' di concime e da questa parte che è meno fertile aggiungine. Senta, recentemente sui giornali si è parlato del riso, di come il riso che arriva dall'est stia facendo sparire sostanzialmente la produzione nazionale. Lei si occupa proprio di riso. Ecco, con la tecnologia è possibile sopperire alle diversità che ci sono di costi, di leggi, di rispetto ambientale, o è una battaglia persa e ci vogliono i dazi? Allora, noi con riso preciso, agricoltura di precisione, ma dico riso preciso perché noi siamo sostanzialmente un'azienda risicola, c'è un bel risparmio, c'è un ritorno economico, c'è un bel ritorno dell'ambiente, ma non sono quei numeri che mi sta chiedendo lei. Il problema della concorrenza resta. È altra. I bambini che vengono sfruttati, l'infortunistica che gli altri non hanno. Ci sono dei protocolli di produzione che sono completamente diversi. Quindi, insomma, ci vogliono i dazi. Ci vuole il dazio, sostanzialmente ci vuole il dazio e l'informazione al consumatore. Grazie, grazie Nino Chiò. La ringrazio. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento, però questa volta direttamente a settembre, perché anche noi di Smart City ce ne andiamo in vacanza. Buona estate a voi tutti.